GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Il Gran Premio del Brasile a Felipe Massa e il titolo mondiale a Lewis Hamilton. Questo l'esito del mondiale di Formula 1. A Interlagos, sotto la pioggia, Massa vince davanti ad Alonso e all'altra Ferrari di Raikkonen e per alcuni istanti sembra sicuro anche del titolo piloti. Ma proprio alla penultima curva Hamilton supera Glock e conquista il quinto posto sufficiente per arrivare al titolo. Alla Ferrari va il campionato costruttori. L'orgoglio del ferrarista Massa. Esco da qui contentissimo, esco da qui orgoglioso di correre per la Ferrari, una squadra che ha fatto tanto per me. Esco orgoglioso perché abbiamo fatto tutto quello che potevamo, anche se abbiamo avuto dei risultati negativi. Le cose ogni tanto succedono un po' diverso di quello che si pensa, però come ho detto, esco da qui orgoglioso e abbiamo un motivo, un campionato che abbiamo vinto, il costruttori, è un motivo da commemorare. Tempo di sorpassi anche in Serie A, dove il Milan batte 1-0 il Napoli e vola in testa alla classifica. A San Siro decide un autogol di Denis nel finale, dopo che Jezzo aveva parato un rigore di Kakà e che i partenopei avevano giocato nel secondo tempo in 10 per l'espulsione di Maggio. La gioia del milanista Seedorf. Abbiamo spinto tantissimo, ovviamente loro erano in 10, però anche 11 contro 11 credo che abbiamo controllato bene la partita, credo che siamo stati proprio grintosi e per quello abbiamo avuto un po' di fortuna con questo gol. Spettacolo e gol tra Udinese e Genoa, alla fine 2-2. Il tecnico dei friulani Marino a Sky Sport. C'è stato un momento di sofferenza, poi abbiamo avuto una buona reazione come hanno avuto loro dopo il gol all'inizio che abbiamo fatto noi. Per cui c'è stata la reazione anche dopo il 2-2, abbiamo cercato di vincere, quindi va bene così, il risultato credo che tutto sommato rispecchi quello che si è visto in campo. Un gol di Foggia regala alla Lazio l'1-0 sul Catania, il presidente biancoceleste Lotito. Abbiamo fatto degli aggiustamenti tattici, il tecnico ha fatto aggiustamenti tattici fino a trovare alla metà del secondo tempo, secondo me la soluzione giusta che ha consentito poi meritatamente alla Lazio di poter vincere. Sempre per 1-0 la Fiorentina cade a Siena, il tecnico Viola Prandelli. Per un'ora siamo stati in partita e avevamo avuto la supremazia non solo territoriale ma anche del gioco. Poi abbiamo preso una ripartenza, ci siamo un po' spaventati, abbiamo perso un po' di ordine e da lì la partita l'ha fatta praticamente il Siena. Ci è mancata un po' di cattiveria. In coda il Cagliari travolge per 5-1 il Bologna. Gli altri risultati: Palermo-Chievo 3-0, Sampdoria-Torino 1-0, 0-0 tra Atalanta e Lecce. La maratona di New York, tra gli uomini successo per il brasiliano Gomes dos Santos, già vincitore nel 2006. Tra le donne l'impresa è dell'inglese Paula Radcliffe, che a 34 anni ha conquistato il terzo successo in carriera dopo quelli del 2004 e del 2007. Per il basket, quarta giornata di A1, ancora a punteggio pieno Siena e Roma, mentre la Virtus Bologna cade a Pesaro. Vincono anche Biella ad Avellino, Montegranaro, Treviso e Cantù. Chiudiamo con la pallavolo. Nella sesta di A1 maschile, Trento batte Pineto 3-0 e resta in vetta, davanti a Macerata che supera con lo stesso punteggio Verona. Tra le donne guida la coppia Pesaro-Bergamo a quota 11 punti. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Un saluto da Dario Ricci.